GR24, il sole 24 ore. Faccia a faccia Merkel e Berlusconi, dopo le accuse si vedranno a Bruxelles al vertice del Partito Popolare Europeo. Bersani rassicura la stampa estera, non sarà il cavaliere a dettare l'agenda. Via al decreto sviluppo, poco fa il voto alla Camera e da Bruxelles l'ok per la Grecia. Stefano Cucchi morì in ospedale per mancanza di cibo e acqua, sconcertante la conclusione dei periti. Addio all'auto e boom di pendolari, sono oltre 14 milioni, in arrivo la neve e il governo fa marcia indietro sulle catene. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Monti e Berlusconi a Bruxelles, il primo per una serie di convegni e incontri, il secondo per il vertice del Partito Popolare Europeo, e in Italia il sottosegretario del PD Bersani che incontra la stampa estera. Insomma, la politica italiana anche oggi è sotto lo sguardo dell'Europa, e allora cominciamo subito, perché pochi istanti fa Berlusconi è arrivato dopo giorni di polemiche e a Bruxelles, e dovrebbe incontrare tra l'altro faccia a faccia Angela Merkel, anche lei tra i popolari europei. E allora sentiamo Andrea Viali. Andrea Viali, qualche problema sul collegamento? Allora, interviene nel frattempo anche Moody's. Le turbolenze politiche in Italia hanno conseguenze limitate sull'affidabilità creditizia del paese, scrive questa mattina con parole rassicuranti l'agenzia di rating, che tra l'altro aggiunge: ci aspettiamo che il prossimo governo mantenga gli elementi chiave della legge di stabilità. Vediamo se siamo riusciti nel frattempo a ritrovare il collegamento con Andrea Viali. No, lo sentiremo più tardi. E allora andiamo invece a Roma, dove, dicevamo, a rassicurare sul ruolo di Berlusconi nella campagna elettorale italiana ci prova Bersani. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Berlusconi non vincerà, Berlusconi perderà, ne è convinto il segretario del PD Bersani, che di fronte ai giornalisti stranieri riuniti presso l'associazione stampa estera attacca a testa bassa il cavaliere, accusandolo di aver cambiato troppe volte posizione sulla sua ricandidatura. Ma sentiamo le parole di Bersani. Sta cercando di salvare il salvabile e di mettersi al centro della scena, punto, con delle giravolte che durano mezz'ora e sulle quali tutta la stampa mondiale, per cui i problemi veri finiscono in 14ª pagina. Questa è la forza di Berlusconi. Io non intendo certo fare la prossima campagna elettorale su Berlusconi sì, Berlusconi no. Non intendo. Gli italiani hanno tutti gli elementi per decidere e decideranno che Berlusconi perde. E Bersani, poi, a differenza di Berlusconi, non farà passi indietro se si dovesse candidare Monti, ma il segretario del PD vuole anche rassicurare sulla continuità rispetto al governo del professore. Da quell'agenda non si torna indietro, dice il leader dei democratici. Poi conferma l'apertura al centro, cioè in qualsiasi situazione numerica, la disponibilità e l'intenzione dei progressisti ad aprire un dialogo e un confronto con un centro europeista antipopulista costituzionale, comunque si costituirà. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Dunque, così a Roma, Berlusconi, dicevamo, arrivato a Bruxelles. Andrea Viali. Sì, buongiorno, ora vi sento. Berlusconi, come dicevi, è arrivato a Bruxelles, dove sta iniziando proprio in questi minuti il prevertice del Partito Popolare Europeo, che come tradizione precede il Consiglio Europeo. Nel PPE, come sappiamo, c'è chi vorrebbe sperderlo, chi vorrebbe cacciare Berlusconi dopo la sua decisione di ritirare l'appoggio a Monti e le sue ripetute critiche all'Europa. L'incontro si preannuncia quindi particolarmente delicato, e ci sarà anche la cancelliera Merkel, che con la quale, come sappiamo, non corrono buoni rapporti. Berlusconi ha fatto comunque sapere che rassicurerà il PPE sul suo europeismo, lo ha già anticipato ieri dopo aver annunciato, un po' a sorpresa, di essere pronto anche a fare un passo indietro se Monti dovesse decidere di candidarsi alla guida di tutti i moderati, una mossa il cui obiettivo, secondo alcuni, sarebbe soprattutto quello di tranquillizzare l'ala moderata del Popolo delle Libertà, ma anche i partner europei, che, lo ricordiamo, hanno quasi tutti accolto con scetticismo la notizia della sua nuova discesa in campo. Vedremo ora quale sarà la reazione da parte del PPE a questo suo nuovo annuncio. È tutto. Il punto di Stefano Folli. Gli ultimi bagliori dell'era di Berlusconi si consumano nella confusione senza una logica apparente, un autentico psicodramma del potere che si estingue. L'unico dato di fatto è che Berlusconi ha compreso che la sua candidatura è fallita, perché gli hanno detto no i governi europei, i mercati finanziari, la Casa Bianca, la Chiesa e infine, elemento più importante di tutti, la Lega di Maroni. Senza una sola carta in mano, Berlusconi ha tentato l'ultima giocata, agganciarsi al carro di Mario Monti, cercare di negoziare qualcosa con il Presidente del Consiglio in vista della discesa in campo di quest'ultimo, anche per evitare una saldatura fra gli ambienti moderati che sostengono Monti e il centro-sinistra. Ma è un'operazione senza respiro, che il Premier non ha alcuna difficoltà a rigettare. Che Monti si candidi oppure no, non è più questione che riguardi Berlusconi, è un passaggio politico che investe altri scenari in Italia e in Europa e al quale Berlusconi dopo tanti anni di potere può solo assistere, in compagnia del suo gruppo di fedelissimi che però si sono da tempo chiusi da soli in un angolo. E c'è un'altra notizia dell'ultima ora che sembra aprire un nuovo scenario, perché il Movimento dei Cittadini ha presentato stamani al TAR del Lazio la rinuncia agli effetti del provvedimento che fissava al 3-4 febbraio la data per il voto regionale e ha chiesto al TAR di prenderne atto. Questo in sostanza apre la strada a un più facile Election Day, il 17 o il 24 febbraio, che comprenda non solo il voto per le politiche ma anche per tutte le tre regionali, vale a dire Lombardia, Lazio e Molise. Angela Merkel, dicevamo, attesa a Bruxelles per il vertice PPE e che però questa mattina, parlando al Bundestag, ha definito un accordo storico, quello raggiunto nella notte a Bruxelles. Aumentano di fatto i poteri di vigilanza della Banca Centrale Europea, Bruxelles, dove tra l'altro poco fa è arrivato anche l'ok per gli aiuti alla Grecia. Allora io saluto anche Beda Romano, buongiorno. Buongiorno. Dunque, accordo per la BCE, ok per gli aiuti alla Grecia, sono state ore importanti le ultime? Direi di sì, credo che l'accordo sulla sorveglianza bancaria è un accordo importante per tentare di mettere mano all'assetto, alla crisi debitoria e quindi anche all'assetto istituzionale dell'Unione Monetaria. Prevede, come avete detto, il trasferimento almeno in parte della vigilanza bancaria dagli Stati membri alla Banca Centrale Europea ed è quindi un'importante cessione di sovranità degli Stati a una nuova all'istituzione europea. Questo accordo è giunto dopo mesi di negoziati e anni di discussioni. È probabile che alcuni critici potranno considerarlo insufficiente e forse anche un brutto compromesso politico, però bene o male i governi hanno trovato un accordo e a questo punto questo accordo verrà negoziato con il Parlamento e l'obiettivo è l'approvazione definitiva in gennaio. Insomma, qualcosa si muove, Beda? Ma direi di sì, credo che l'ultimo anno ha visto cambiare le sembianze dell'Unione Monetaria. Nell'ultimo anno i Paesi membri hanno deciso per ultimo di trasferire la vigilanza bancaria dagli Stati membri alla BCE, hanno anche creato un fondo monetario europeo che si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità, hanno firmato e stanno ratificando un nuovo trattato sulla disciplina di bilancio, hanno modificato il patto di stabilità e di crescita per renderlo più incisivo. Mi sembra che si vada verso una maggiore integrazione della zona euro, rimane il tassello più controverso che è quello della mutualizzazione dei debiti sovrani e su questo aspetto molto controverso non c'è ancora una unanimità tra i Paesi membri della zona euro. Grazie allora Beda Romano e c'è anche la buona notizia intanto che arriva dai mercati, perché è andata ancora bene questa mattina l'asta dei titoli italiani, Valentina Furlanetto. Sì, come dicevi infatti è andata bene, il rapporto tra domanda e offerta è stato di 1,36 contro 1,5 del collocamento di novembre, il tesoro ha anche assegnato 729 milioni di euro contro un target massimo di 750 del BTP 2026 con un rendimento medio del 4,7%. Lo spread è intorno ai 333 punti, la Piazza Affari è invece intorno alla parità con il FTSE MIBA più 0,11%. I mercati in Europa stamattina sono parsi incerti sulla direzione da prendere dopo la decisione di ieri della Federal Reserve. Parigi è intorno alla parità, Francoforte cede lo 0,28%, anche Londra in calo dello 0,22%, a Milano brilla la Popolare di Milano più 4,24% e la Popolare dell'Emilia Romagna segue a più 2,43%, bene un po' tutte le banche, è nel più 0,53%. Per quanto riguarda gli altri titoli, Eni intorno alla parità meno 0,06%, fra i negativi Saipem meno 0,94%, in questo caso per il caso Algeria. Euro sul dollaro 1,3067 ed è tutto. Grazie anche Valentina Furlanetto. Torniamo a Roma perché in questi minuti si attendeva un ok al decreto crescita, al provvedimento su cui è scattata, ricorderete, tutta la bagarre che poi ha portato alla caduta del governo. La notizia è appena arrivata e allora sentiamo Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il provvedimento sulla crescita ha ricevuto dunque pochi minuti fa il via libera definitivo della Camera, 261 i voti favorevoli di PD ed UDC più i dissidenti del PDL, 55 i contrari, Lega Italia dei Valori, 131 gli astenuti, questi ultimi del Popolo della Libertà. Ieri sul testo il governo aveva posto la fiducia. Tra gli elementi portanti del provvedimento ricordiamo agevolazioni per le start-up, credito di imposta per le infrastrutture, azzeramento del digital divide, ma anche proroga delle concessioni delle spiagge, riforma delle banche popolari e soluzione del nodo fondazioni cassa, depositi e prestiti. Il testo, rinominato anche decreto sviluppo bis, contiene poi un piano strategico per il turismo di durata quinquennale. Carta d'identità e tessera sanitaria vengono accorpati in un unico tesserino elettronico, obbligo per i commercianti di accettare pagamenti in bancomat dal 2014, slitta all'anno scolastico 2014-2015 l'arrivo nelle scuole del libro elettronico, via libera infine all'obbligo dell'indicazione del farmaco generico accanto a quello di marca. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. La cronaca ora: è arrivata questa mattina la perizia sulle cause della morte di Stefano Cucchi, una settimana dopo il suo arresto nel reparto detenuti dell'ospedale Pertini di Roma. Il ragazzo, dicono i periti incaricati dalla terza corte d'assise di Roma, morì per gravi carenze di cibo e liquidi. I medici del reparto non trattarono il paziente in maniera adeguata, si legge ancora, determinandone quindi la morte. Ci torneremo nelle prossime edizioni. Ora voltiamo invece pagina. Ben il 37% degli italiani vorrebbe vivere all'estero. Uno dei dati che emergono nel rapporto sulle città presentato oggi dal Censis, in occasione del Municipium 2012, il rapporto che fotografa cittadini più digitali ed ecologici, ma città che faticano invece a modernizzarsi. Ed è boom di pendolari, 1 milione in più in 5 anni. Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Abbiamo avuto un periodo di forte acquisto di abitazioni dal 2007-2008, questo ha voluto dire uno spostamento dell'abitare in piccoli comuni di Interland e un aumento così rilevante perché i posti di lavoro restano concentrati nelle aree centrali e quindi 1 milione in più di pendolari purtroppo non si accorgono però di questo fenomeno tutti coloro che dovrebbero meglio organizzare questo tragitto così importante che porta le persone a lavorare o a studiare. Come sono cambiate le città per la crisi? Qual è il dato che i cittadini notano di più? Certamente il commercio. Noi dobbiamo pensare che il commercio di vicinato, i negozi, fanno anche un po' la città. Lo fanno, sono un presidio, sono l'occasione anche per i cittadini di incontrarsi. Quello che la crisi ha più colpito e sono le saracinesche che si chiudono e le luci che sono spente. Arriva ancora la neve, primi fiocchi già caduti questa mattina su Firenze, dal pomeriggio attesa in molte zone del centro-nord, da questa sera dovrebbe nevicare abbondantemente su Torino e Milano, è Giunone il nuovo ciclone atteso nelle prossime ore che porterà ancora anche temperature polari. E intanto il governo cambia il tiro sulle catene da neve. Niente catene in soffitta né obbligo di montare gli invernali, tranne in certe situazioni. Dopo le tante polemiche, il governo corregge il tiro e lo fa con il sottosegretario ai trasporti, Guido Improta. La norma, spiega, probabilmente verrà circoscritta alle sole autostrade e in situazioni particolari, ad esempio in caso di precipitazioni nevose molto consistenti, perché, continua Improta, vanno evitate situazioni come quella che si verificò sulla A1 nell'inverno del 2010, quando migliaia di automobilisti rimasero bloccati a causa dei troppi mezzi non equipaggiati adeguatamente. Niente catene in soffitta, dunque, anche perché, spiega lo stesso sottosegretario, per esempio sulle forti pendenze sono più funzionali delle gomme invernali. La modifica potrebbe già essere inserita nella legge di stabilità. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono almeno 20 le vittime di un attentato con un'autobomba compiuto a sud di Damasco questa mattina. Intanto, dopo gli Stati Uniti pronti a riconoscere i ribelli siriani, anche l'Europa ora pensa a nuove mosse. Cristina Georgieva è commissario europeo all'aiuto umanitario, l'ha intervistata Gigi Donelli. In 20 months of fighting, the situation inside Syria has become unbearable for millions of people. In 20 mesi di scontri in Siria la situazione è diventata quasi insostenibile. Al momento abbiamo addirittura 500.000 rifugiati che si portano verso altri paesi. We also have been very active to bring as much. Siamo stati molto attivi nel coordinarci anche a livello internazionale per fornire aiuti umanitari e il Syrian Humanitarian Forum è il foro in cui si mobilitano tutti gli stati, anche coloro che sarebbero in un altro schieramento a livello politico come la Russia e la Cina. Stiamo tentando di fare molto di più, ma ovviamente i bisogni della popolazione siriana aumentano di giorno in giorno in modo drammatico. Vi basti pensare che soltanto uno su quattro dei siriani che chiede aiuto riceve poi effettivamente l'aiuto di cui ha bisogno. Torniamo ancora proprio a Bruxelles, ve lo dicevamo in apertura, era atteso anche l'arrivo di Monti, ebbene è faccia a faccia con il Presidente della Commissione Europea Barroso. Con Monti ho parlato della situazione italiana, ha detto Barroso proprio un istante fa, vediamo se riusciamo a farvelo sentire in diretta da Bruxelles. La credibilità del governo italiano. Sono segni incoraggianti che la fiducia sta ritornando nella capacità dell'Italia di risolvere i suoi problemi. Quindi vorrei lodare Mario Monti e il suo governo per questo. Vorrei esprimere anche la mia fiducia sul fatto che l'Italia continuerà su questo sentiero delle riforme, che sono delle condizioni importanti per il ritorno della crescita e dell'occupazione. Adesso c'è bisogno proprio di questo, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva economica dell'Italia. Le elezioni del 2013 non possono essere né una pausa né una giustificazione per un rallentamento nelle riforme e nell'agenda del consolidamento, ma la situazione attuale è stata creata da altri, però non può essere risolta da altri, né ci può essere una soluzione magica, non ci sono giustificazioni, bisogna continuare con le riforme e il consolidamento a casa, questo vale per tutti i paesi e l'Italia non è un'eccezione. E così dunque l'abbiamo sentito in diretta Barroso, fiducioso che l'Italia segua il cammino delle riforme Monti. La conferenza stampa è in corso, ci torneremo nelle prossime edizioni. E nel frattempo andiamo avanti e torniamo proprio in Italia con un'altra notizia. Per la quinta volta la legge 40 sulla fecondazione arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata ora a pronunciarsi anche sulla possibilità di far utilizzare alcuni embrioni per la ricerca. Tutto questo è partito dal ricorso di una coppia milanese difesa dall'avvocato Gianni Baldini, e allora sentiamolo al microfono di Raffaella Calandra. La sentenza del giudice di Firenze ritiene che il divieto assoluto di ricerca scientifica sia di fatto irragionevole. In sostanza, ora la consulta dovrà pronunciarsi sulla possibilità o meno di utilizzare alcuni embrioni per la ricerca. Esatto, è un embrione che a priori non ha più nessuna chance di essere trasferito nel corpo di una donna per diventare bambino, perché è stato abbandonato oppure perché è malato e la donna lo rifiuta. Qual è l'altro punto che appunto è stato sollevato davanti alla consulta? La legge 40 prevede che unico trattamento sanitario, a dire il vero, prevede che il consenso della donna al trattamento di PMA non possa essere revocato nel momento in cui si è giunti al concepimento dell'embrione. La fecondazione è il tema di oggi di Italia in Controluce. Cosa resta della legge? Tra poco alle 13.30 ne parleremo. Torniamo ancora a Bruxelles, sta parlando anche Mario Monti. I frutti si stanno vedendo, mi rallegro in particolare per l'accordo di questa notte sulla sorveglianza bancaria, sul meccanismo unico di sorveglianza bancaria. Effettivamente è straordinario che in 3 mesi esatti, dal 12 settembre in cui la Commissione ha presentato la sua proposta, ci sia stato un accordo. Questo è segno della capacità di reazione alle difficoltà che l'Unione Europea conserva e sviluppa nei momenti di crisi in particolare. È segno della vitalità della Commissione. È importante che, avendo vissuto tutti insieme il bellissimo momento di Oslo lunedì scorso, noi sappiamo trasformare quella carica psicologica che è venuta all'Europa in decisioni rapide e coerenti per costruire un futuro dell'Europa sempre più migliore, anche operativamente. Così Monti, la conferenza stampa naturalmente prosegue. Allora io, per tutti gli aggiornamenti, vi ricordo GR24 alle 14, noi invece ci fermiamo qui, Gianmarco Ferronato in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola dal Courmayeur Noir in Festival. Assegnati ieri i primi premi della manifestazione. Il premio letterario Giorgio Scerbanenko va a Il metodo del coccodrillo di Maurizio De Giovanni, un premio che finalmente dà il giusto riconoscimento al noir, spesso snobbato dai critici. Maurizio De Giovanni. Io sono uno di quelli che è convinto che qualsiasi cosa faccia entrare in libreria qualcuno è valida. Io sono uno di quelli che non spara sui libri di enorme successo popolare e di fondamentalmente molto leggero, diciamo, per usare un eufemismo, messaggio. Se uno entra in libreria, poi ci torna. Ed è un problema che noi qui in Italia abbiamo. Il nostro genere è un genere che attira in libreria, quindi come tale dovrebbe essere molto coccolato. Al contrario, invece, è un genere che non ci vede mai vincere premi letterari, diciamo, dei principali, non ci vede mai sulle pagine più importanti delle riviste di critica o in prima serata alle trasmissioni, eccetera, eccetera. Però noi, i nostri libri sono quelli che entrano in casa della gente. Io dico sempre che non cambio due lettori con un critico, quindi mi sta benissimo così. Menzione speciale a Il male quotidiano di Massimo Gardella, un noir, come anche molti film del concorso, ambientato in provincia. La campagna, la provincia, sono posti in cui i rapporti umani sono anche diversi da quelli della città. Cioè, spesso io non conosco il mio vicino di casa, anche se ci abito da 5 anni nella stessa casa a Milano. Nei posti più piccoli tutti sanno tutto di tutti, costantemente, e quindi è più difficile tenere nascoste queste cose. Ci sono altre regole che vigono in quei posti che, piuttosto che nella città, del vivere civile. Non lo so che cos'è. È il paesaggio che fa molto. Io sono patito di cinema, ho sempre amato il noir cinematografico di Chabrol, i film dell'ispettore Lavardin, meravigliosi. Si svolgono in queste campagne lussureggianti francesi che in realtà nascono degli orrori tremendi. Ospite d'onore del noir Gabriele Salvatores, che ha presentato le prime immagini del suo nuovo film Educazione Siberiana, tratto dal bestseller di Nikolai Lilin. Attraverso gli occhi di Nikolai, cioè attraverso il suo sguardo e le cose che mi raccontava e le cose che c'erano nel libro, ma anche le cose che mi raccontava che non erano nel libro, che sono state molto molto utili per noi molto, come diceva Philip Dick, grande scrittore di fantasia, se vuoi costruire un mondo devi essere sicuro che le basi siano solide, reali, e lui è stato questo per noi. Poi certo il mondo lo abbiamo ricostruito anche per fare in modo che non fosse un film documentario ma che fosse un film di fiction, che quindi parlasse a tutti ma che avesse grande rispetto per quel mondo che esiste veramente, insomma. Chiudiamo parlando invece del Festival di Sanremo. Mentre resta l'incognita sulle date della manifestazione, è attesa tra pochi minuti la lista dei big in gara, che verrà comunicata al TG1. Lo ha annunciato questa mattina Fabio Fazio, che sul suo neonato account Twitter ha scritto: «Molti saranno sorpresi e vedrete nessun pregiudizio verso i talent, anzi è il pop di oggi». E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, l'augurio di una buona giornata.